la roba da mangiare, non si può più comprare nulla. Vai a prendere un coso di olio per friggere, una bottiglia d'olio per friggere, da un euro a qualcosa che costava, adesso costa 3,50 euro, quasi quanto l'olio di oliva. Vabbè, e noi paghiamo. Vabbè dai, io vi devo lasciare che devo andare a portare giù il cane, fra. Saluto anche l'amico di Algheno, se rientra Claudio, aspetta, se rientra, ma non lo so, non è entrato in questo momento, magari sta mangiando. Vabbè dai, vi saluto tutti, salutami Claudio quando rientra, se rientra. Io faccio quell'entità che vado così a portare giù il cane, devo fare da mangiare e tutto, perché io glielo cucino da mangiare, non ne ho crocchette di quelle vecchie. Ehi capa, dai, salutami anche Alghero, perché io ripeto, purtroppo sono impossibilitato, non possiamo continuare. Dai, un abbraccio, alle prossime, vediamo qua se entra Claudio, se no ci aggiorniamo alle prossime. Ciao ciao ancora, buona serata, buon tutto. Il fischio migliore di Sasso. Ciao a tutti, ciao Gianni, ciao Franco e poi non so chi ci sia. Oh, ciao Robè, come va? No, ho sentito tutto molto, siccome mi sono allontanato un attimino, mi stavo ascoltando, sono rientrato e non c'era nessuno, allora ho fatto un fischio, un richiamo per vedere se qualcuno rispondeva e avete risposto. Avanti a chi tocca, vai prima Gianni e poi Franco. E io stavo chiudendo, ti saluto, dai, stavo chiudendo perché tornano a portare giù il cane, dai, che anche lui ha diritto, poverino. Dai, vi saluto, statemi bene, mi dispiace Robè, se è troppo tardi. Vabbè, ero da altre parti, dai, non c'è problema, dai, non succede niente, ci mancherebbe. Avremo modo di risentirci. Ciao Gianni, buona passeggiata col cane e buon tutto. Vai Franco. Capo, è diventato il break. Ti rilascio tra un po'. Sì, intanto ti faccio i miei saluti. Mi hai sentito dopo tanto, allora, perché anche per colpa mia, perché non stavo neanche entrando. Poi mi dirai come vanno le altre frequenze, dai. Avanti break, se mi ascolti. Ciao Claudio, ti ascolto più basso del solito, un po' gracchina questa modulazione, hai cambiato radio probabilmente. Anche io oggi ti tiro fuori proprio con le pinze, perché come dice Roberto sei un po' più basso del solito, per me sei un po' negativo, per colpa mia sicuramente, vi ripeto, ho sempre l'antenna sul balcone. C'è anche l'amico Mirko da Alghero, rilanciatelo voi perché io non lo sento. Avanti Roberto. Avanti Mirko, se mi ascolti, Claudio sei 9:10 qua, però la voce non mi piace la modulazione, ti ascoltavo meglio in altre situazioni. Rilanciamo a Mirko, se mi ascolta, Galghiero, avanti. Sì, anche lui qua sei 9, 5-9 il segnale tuo. Vediamo se ti ha ascoltato l'amico di Muro su Claudio, l'hai ascoltato a Mirko? Io non lo sento più, Ma non senti a Claudio o a Mirko tu, Fra? Un ultimo passaggio, ho perso anche Claudio. No, il segnale c'era Claudio, però non mi piace la modulazione, sembra citofonica, molto gracchiante, è quasi 9:10 il segnale, mentre Mirko arriva a 9, però è un po' più forte del radio. E Mirko, non so se hai ascoltato a Claudio da Muros, ti rilancio, avanti a te Mirko. Vabbè, anche tu hai peggiorato un pochettino perché superavi il 9, adesso sei 9, un pochettino più forte arrivavi rispetto a prima. Vediamo, come si chiama, Claudio di Muros, se ha fatto qualche operazione di miglioramento. Adesso sei salito a 9:15, vediamo se sicuramente la Franca ha migliorato tanto. Avanti Franco. Sì, specialmente la radio adesso è una radio di anche 4 ti posso dare, anche se il segnale è sempre basso, è aumentato leggermente di Santiago, però la radio adesso è perfetta, va bene. Vediamo un po' l'altra radio, poi se migliora ancora di più. Avanti Mirko, se mi senti, se no lo rilanci tu, Roberto. Mirko, hai sentito a Franco? Dice ti ascolta basso, mi dispiace purtroppo, quando succedono le cose così è brutto, perché uno male le ascolta, l'altro non ascolta l'altro, e non è un voceo simpatico, diciamo, non è molto, diciamo, non va più che bene, dai. E cosa vuoi? Tu ti stai aiutando Franco, sei 9:25 da me. Sì, se no, giustamente non mi ascolta nessuno, per me, a Sassi di sì, ma fuori no. Andiamo, bobo. Questo cos'è? Propagazione? C'è questo qua che sta parlando adesso, chi è questo che entra? Ehi, da Monteoro, Giovanni Nocchioli sono, il figlio di Mastro Caldaro. Giovanni Nocchioli dove sono chitarra, Rebecca, 9:30. Ehi, mitico mio 140. Sono entrato a salutare a Mirko di Alghero, che è secolo che non lo sento. Ciao Mirko, si conferma, è così, la campagna purtroppo se non te la prepari per l'inverno poi sono sempre problemi. Ciao Franco, buonasera a tutti, c'era anche Gianni, c'era Luca poco fa, ma sicuramente sta facendo cosa, non lo so, e c'è anche a te Roberto, avanti Fra. Capa, intanto ti manda i saluti Gianni che è sceso per il cane, per Tyson. Vediamo un po' se rientra più tardi, ma per adesso è chiuso. Mi ha chiesto di salutarti. Avanti Claudio. Capa, contraccambio, allora Gianni, sì, mi sono tornato un attimo perché ero al telefono e quindi ho dovuto mollare. Allora, Robby, com'è? L'ho visto in passato, in settimana, forse una volta ti ho visto, anzi sabato ci siamo visti da Fabrizio, ma l'operazione poi non è andata a finire? L'operazione abbiamo finito oggi, ho portato via tutto lassù, adesso sono rimasti tutti quei pezzettini che li facciamo tutti a pezzi, li metto dentro il sacco e me li porto qua per bruciare, però per il resto abbiamo fatto. Come avete detto, vabbè che sono uscito tardi da officina pure oggi perché è venuta gente dopo. Non è che ci avete qualche bracciere seminuovo a metà prezzo? Bracciere per fare fuoco? Sto scherzando naturalmente, che adesso saranno, come si chiama, ritorneranno in auge i bracciri con questo fatto del pelle. Guarda, io ho già contattato il muratore, se continua così, io intanto ne ho già preso 10 sacchi, mi sono già messi nella pedanina, 5 a 10 a 10 me li prendo, poi vediamo, l'ho pagato a 9, esce la biglielucci, però penso che non sia meno di 11-12, io l'ho pagato a 9, beh, ne ho preso 10 sacchi, adesso per iniziare ce l'ho, e poi insomma continuo a prendere, però ho già contattato il mio, cui l'hanno fatto qua, secondo come va, all'angolo della stufa pellet che c'è la canna fumaria già pronta, faccio fare il cammino, non so la regna che va giù, non hai idea, ma c'è la motosega nel bello, due tirai che vi sono. Se non vieni da me in officina, non sai quanto anni ho di roba da bruciare, ma un bel tavolone e cose. No, paraurti. Sì, paraurti, stessi di manche, a tutto brucio, botti veci, fra, tutto, binari, da ne hai binari tu. Aspetta, mi stanno chiamando. Sì? Avanti Mirko, comunque la vergogna che il pellet se va in Corsica, infatti io ho un amico, io non ne so fare pellet, ma c'erano Danilo e mio cognato, ne consumano un bel, conviene farsi fare un carico di pellet 5,50 euro il sacco, quello che qua paghi sui 10 euro, la stessa marca. Oh scusate, devo chiudere che mi chiamano, è arrivata gente, un abbraccio a tutti e riprendi Claudio. Ciao Fra, contraccambio gli abbracci a casa. Sì, lo so, ma infatti lo sto scherzando, no, non mi metto a fare adesso lasciare la casa per fare il camminetto, non sarò nemmeno a futtino. Adesso l'ho comprata a 9, però mio genero che c'ha gli amici in Corsica li ha già contattati e molto probabilmente ce ne portano una pedana intera, ce lo dividiamo, capite? A 5,50 euro, destinazione, portato a destinazione. Ma c'è sempre l'amico nostro, Iaiomi, quello già conosci, lui va quasi ogni settimana lì in Corsica, dico che è già andato con Lugami, ho pigliato la pedana. Ma fai allora, già diciamo, già siamo amici, già lo vedi, lo sai, no? Quindi non c'è problema, i soldi facciamo portare sì una pedana dalla Corsica, perché c'è il viaggio, capito, però se lui va per lavoro e rientra scarica non ci vuole niente a portare una pedana, si paga chiaramente quello che ci ha pagato. E certo, tanto lui il trasporto, andare a carico vuoto, paga sempre la stessa cosa, le tasse d'ingresso di soggiorno sono sempre uguali, non c'entra niente se sei vuoto pieno, lui va sempre a montare infissi, finestre, porre, di tutto vale. Adesso quando capita in officina già glielo dico, non per me, a me non me ne affitti nulla, io ho, vabbè, i termosifoni sono spenti già da un po' di anni, condominali, ho la pompa di calore con le stufe a liquido, con le stufe elettroniche, adesso voglio vedere quanto ci sale il prezzo di quello, ancora non l'ho verificato. È un casino Roberto, è inverno amaro per tutti veramente, perché il costo che io avevo stabilito per il mio impianto erano, per quanto riguarda l'inverno, avevo calcolato 200 euro in più, capito? 200 euro in più. invece adesso sono oltre i 400, quindi è un inverno amaro per tutti, chissà come cazzo andremo a finire, non lo so. Io ero già non sono freddoloso, però c'è da dire che casa mia è un bel freddo, un bel caldo d'estate e un bel freddo d'estate, cioè il contrario, un bel freddo d'inverno. Se si potesse fare un esperimento, qualche scatoletta che ti carichi un po' di aria calda, te la butti piano piano d'inverno, se fa l'inverno del genere diventi miliardario. Questa è fresca d'estate, perché non ce n'è, io non ho condizionatori, ci sono 10 gradi di differenza rispetto a fuori, capito? No, non c'è problema, io non ho mai partito il caldo, anche con 36-37 gradi fuori, mentre ce n'erano 23-24, perché è fatto talmente bene. Ma d'inverno per aggaggiati sotto, no, ovviamente, allora già di per aggaggiati sotto. Io l'impianto l'accendo dalle 2 nel pomeriggio, 2-2 e mezza, sino alle 10 e mezza di notte, 11 di notte, c'è da cagarsi a freddo, ma quando apri la porta è tutto gelato la mattina, cioè il verde del tratto è tutto bianco, la macchina devi scongelare con l'acqua calda, perché altrimenti manco gli sportelli aprono, andiamo sotto il vero qua. Già lo so, di lì il vento tira, quando tira il maestrale di lì è gelo, cioè se ci sono 10 gradi di temperatura te lo porta a 3 gradi la percezione, per cui è molto, molto più freddo. Se arrivi a 3-4 gradi la mattina, la notte arrivi a meno 3. Vediamo Mirko se c'è ancora, batte un colpo. Ah, c'era anche Muros, scusa Claudio Muros, ti richiamo subito. C'era Claudio di Muros, vediamo se ha cambiato la radio. Avanti Muros, lascia questo, che questa è l'ultima la radio. Ah, poi mi direi che radio stai utilizzando. Vai Claudio Sassari. Ciao Claudio di Muros, buonasera, ben ascoltato. No, no, vabbè, io attacco, che sono già le 8:10 e pronto la cena, beh, vado a cenare e poi faccio guardo un po' di partite a Palestina giocando a Roma. Vi saluto, ciao buonanotte. Alghero, ciao Claudio di Muros, ciao a te Roberto e a tutti quelli che sono ascoltatori. Chiudo Roberto, ci sentiamo un altro momento, riprendi tu e fai girare. Ehi, amo tutto, buona cena, anche tra poco chiudo, che mi si sta girando un po' la pancia che ha fame, bisogna riempirla. Passa quando vuoi, già lo sai dove sono e non vi sono problemi. Saluta tutti in casa. Mirko, passaggio per te per salutare a Claudio. Sì, sì, anche di più del doppio, perché ieri, diciamo, questo inverno lo trovavi anche a 4,50 euro, quello più scadente anche meno di 4 euro, però diciamo di media era intorno ai 5 euro. Adesso stanno parlando di 12 euro, 11 euro, 10,50 euro, però lo stesso quello buono non lo paghi meno di 10 euro. Non c'è nessuna logica, è solo speculazione, pura e cruda speculazione. Ok, vediamo se qua sul canale 10 c'è qualcuno che vuole entrare o se no nel frattempo si è sistemato Muro sulla radio. Avanti sul 10, nulla, riprendi tu Mirko. Sì, ha aumentato tutto, io stavo parlando con un amico che lui vende stufe a pellet, mi stava parlando del prezzo della legna al quintale, non so di quanto è aumentato, oltre che il pellet è aumentato il carbone, è aumentata la cosa, la legna, e poi adesso voglio vedere quanto è aumentato lo zibro, quel liquido tipo cherosene che ci mettono questi additivi per non fare puzza. L'anno scorso, l'inverno scorso era intorno ai 42 euro, 43 euro, 20 litri, adesso vediamo vedere quanto costa, considerando che il gasolio, la benzina, non dico che sono raddoppiati, ma sono aumentati di media del 20%, purtroppo è così, e sarà sempre peggio finché non si rivolta alla popolazione, qua sarà sempre peggio, o se no coalizzarsi e non comprare più niente, e vedi come abbassa il prezzo, come hanno fatto in un paese sudamericano, si sono coalizzati e detto da oggi non compriamo per un mese i pellet, tu devi vedere come abbassa, non i pellet, era un altro materiale, adesso non mi ricordo se era roba da alimentare, sono stati un mese senza comprare quel prodotto, alla fine nei magazzini, nei coso c'era questa merce che alla fine si deteriorava, l'hanno svenduta a meno di quanto l'hanno pagata per la produzione, e così bisogna fare per il pellet, tu mi stai mettendo il prezzo e io te lo metto, non te ne compro più, e vedi che ti rimane fermo il capannone. Questo cos'è? Sì, no, è molto piacevole, non è fastidiosa, però la prima che aveva era molto fastidiosa, prima di questo cos'era? Il K? Sì, una cosa, un appunto, tu stavi usando all'inizio il sommercamp e ti ho detto che non mi piaceva, era bruttina la meditazione, poco prima di chiudere mi ha detto cambio radio, sempre il sommercamp era, e appunto, e che radio era quell'altra? No, quella usciva molto bene, anche questa va bene, ma quell'altra non scherzava. Sì, sì, lo conosco quella radio, almeno credo di immaginarmi che sia quel modello lì. C'è anche Mirko, vediamo se ti ascolta bene e viceversa se tu ascolti bene a lui. Vai Mirko, mi metti dalla così ti ascoltano bene anche gli altri. Io ti tiro fuori tranquillamente 6S9, radio 5, però qualcuno ha difficoltà a tirarti fuori, soprattutto quelli che sono giù dal centro storico e quelli che sono in zone un po' disagiate. Così possiamo ascoltarci e parlarci tutti insieme senza altri motivi di disturbo. Ok, di nuovo a Claudio da Muro, usate il mic. Ma guarda, ti dico, forse spingeva un po' più naturale l'altra, anche questa va bene, niente da dire, niente da eccepire, però l'altra mi sembrava un po' più naturale conoscendoti di persona. Cosa volevo dire? L'85 c'è modo di provarlo adesso, ho tempo lungo. Cappa, lasciamo un secondino di bianco così vediamo se qualcuno vuole entrare. Avanti, chi vuole entrare? Niente, allora vai tu Mirko. Volevo dire, Mirko, come l'ascolti a Claudio di Muro? Se tu riesci a tirarlo fuori bene o è disturbo? Se metti 5 ottavi e non sbagli, dai, almeno non hai difficoltà ad ascoltare e a fare, soprattutto a parte ascoltare, visto che sei ad Alghero. Ripeto, io, tu sei in linea d'aria, sei molto vicino, sei aperto, io non ho nessun problema, mai avuto problemi con Alghero. Purtroppo ci sono quelli dentro, all'interno della città, che ci sono palazzi, è un po' difficoltoso. Ok, vediamo se Claudio di Muro ha modificato l'apparato, si ha messo l'altra radio, nulla. E allora riprendetela tu Mirko, tu mi ascolti comunque perfettamente senza interferenze. Allora io per le altre bande ho ancora a piazzare due antenne fondamentali per la stazione, che sono ad altissima resa, sto aspettando che rinfreschi un pochettino. Una, vabbè, un lavoro un po' macchinoso, mi devo fare aiutare perché è un'antenna importante, è un'antenna enorme sul traliccetto che ho preparato e tutto, mentre l'altra è un po' più leggera ed è una cubica, però montata in, diciamo, un sistema particolare, montata in orizzontale anziché in verticale, e con quella la utilizzerò per altre bande. Sto aspettando un po' che rinfreschi per fare questa operazione. Per il momento mi sto arrangiando con le antenne, con le filarie, una verticale per i, che mi fa 5 bande, che adesso neanche mi ricordo. Va bene, vediamo se Claudio Muros c'è ancora, avanti, se è rientrato. Dov'è soltanto in essere il PL, invece probabilmente c'è qualche difficoltà. Vediamo un'altra chiamata di nuovo a Claudio, se no riprendi tu Mirko. Vai Mirko, cappa. Io ho qualche minuto ancora, poi devo interrompere perché vado a mangiare. Vediamo se è rientrato Muros, avanti Claudio. Ottima, come piace a me, perfetta. 10, veramente chiara, pulita, senza imperfezioni. La tua voce è naturale. Idem, come si chiama? Idem, eccellente. Il segnale è quasi 9.20, la radio è perfetta, senza nessuna imperfezione, nessun problema di nessun genere. Vediamo Mirko se hai migliorato dalle sue parti. Mirko, a te. Scusa Mirko, mi sono allontanato, mi ha chiamato mia figlia un attimino. Vai tu Claudio. Fammi capire una cosa, voi avete questa radio e tuo padre ne ha un'altra, ma nell'altra stanza, così è. E come fai tu se lui deve parlare? Dovete staccare il cavo, lo devi dare a lui. Ah, perché non lasciare le antenne collegate su due radio vicine, perché uno magari mette un coso, un commutatore, se ne dimentica, magari con l'accendo della radio e gli sciogli la radio, magari, ma l'importante gli arriva la cosa alla radio, un rientro e spacchi tutto. State molto attenti, che non sono giocattoli, sono radio importanti quelli lì. Cosa volevo dire? No, ti ascolto molto bene, niente da dire. L'MC90 è un gran microfono, però non va bene in AM. Preferibile 10.000 volte l'MC60, costa anche meno e basta. Prenditi un 60, fai il sacrificio e c'è un microfono eccellente. L'MC90 c'è una doppia capsula ceramica, eccetera, eccetera, però non è adatto per fare quello che utilizzi tu. Cosa ti volevo dire? Un'altra cosa, mi ha detto ti dà un monitor da mettere, non ho capito a questa radio. Che tipo di apparecchio deve dare? Roberto. No, questa è molto meglio. C'è stato qualcuno che stava chiamando. Aspetta un attimo, avanti. Mi sembrava Antonio. Tu sei Antonio? No, negativo. Non potrò, vabbè, grazie. E chi sei? Roberto da questa parte. Chi sei? Giovanni. Ok, 9.25 sei Giovanni, qua le mie coordinate. Ok, grazie. Che zona sei tu? Monte. Monte, sta arrivando molto forte. Ok, se vuoi controlli a lunga distanza c'è anche Muros, vai su Muros, quanto fa un passaggio così Claudio ti dà risposta e poi c'è Alghero, Mirko. Vediamo prima Muros, avanti e Giovanni per Muros. Avanti Muros. Ok, grazie, sono Monte Passo comunque. Va bene, vi ringrazio, rimango ancora X, riprenderò poi. ok, cosa stavo dicendo? Adesso me lo sono dimenticato. Allora, l'oscilloscopio non te ne va nulla, è solo scenografia, per cui non devi fare valutazione di niente, non sei un professionista nel senso operativo 24 su 24 dove hai necessità di controllare eventuali anomalie dell'emissione, per cui non te ne va nulla. È bello, sì, anche a me mi sarebbe piaciuto. Quell'apparecchio che stai dicendo tu probabilmente è un'interfaccia per uscire nei modi digitali tipo FT8 e cose del genere, però diciamo che sia un po' esagerato il prezzo, 200 euro. Scusa amico, un attimino così rispondo a Claudio. Se c'ho qualcosa da parte di 16 giri, volevo sapere quante ne avevo, neanche date via. Se ce l'ho da parte, te la metto da parte, così tanto non le sto usando, io ce l'ho già, per me non me ne faccio niente. Adesso facciamo riprendere amico che era in stand by. Vai Mirko, Mirko ci sei? Mi sa che l'abbiamo fatto monopulio e si è allontanato. Cosa ti volevo dire? Fai come ho fatto io, ti prendi di quei ripiani, ci sono di tutte le misure da bricome, poi ti metti i piedini, ci sono a base quadrata, a base rotonda, e ti fa la lunghezza che vuoi tu. Come ho fatto io, ho uno, due, tre ripiani, oltre il ripiano vero e proprio dove ho i microfoni, cioè il ripiano del microfono, poi ci sono altri tre ripiani sopra, ci sono tutte le radio, anzi non basta neanche, come spazio l'ho dovuto anche togliere, adesso che deve arrivare un'altra cosa nuova dovrò cercare di fare spazio e tirare via qualcosa. Ok, di nuovo a te il coso, la prima spesa è l'altoparlante, metti l'altoparlante di linea che io ce l'ho sul CS2000, l'altoparlante di linea, perché quello lì è con frontalino nero, mi sembra così, quasi grigio scuro, quasi nero, l'850 è del 950, e mentre nel 940 c'è un altoparlante bello grosso che c'ha i filtri, ci sono uno, due, tre filtri e puoi commutare due radio, c'è A e B, molto bello, e c'è anche un bel suono l'altoparlante del 940, lo speaker, poi c'è uno speaker dello IAESI che è più grande ancora di quello del 940, e poi ne ho altri diversi suoni radio, c'è il suo altoparlante ed è importantissimo perché ti rendi conto anche se per dire vuoi fare il monitor di quello che stai trasmettendo, ti rendi conto come stai uscendo effettivamente, perché con l'altoparlantino sopra che c'ha la radio è piccolino è come che stai ascoltando una scatoletta, per cui perdi tanto di fedeltà, già è brutta la fedeltà naturale della M perché veramente è stretta la banda, la larghezza di banda, per cui se ci metti anche un altoparlantino da niente non senti bene. Ok, di nuovo a te il mic, Claudio, un paio di minuti e chiudo anch'io. Allora, tanti auguri, prima di tutto ti sei abbassato di colpo di segnale, controlla cosa hai combinato Claudio. Sei sceso a 8, da 9.20 sei sceso a 8, non so cosa hai toccato, guarda l'alimentazione. Per cambiare, secondo me c'è qualche rientro, sei 9, qualcosa più di 9, ma sei sceso a 8 da 9.20, controlla l'apparato, che non hai toccato qualcosa, verifica. Ma come stai toccando? Sta salendo e scendendo il segnale. Sì, ma sei basso, ti sei abbassato quasi di 20 dB, è tantissimo, c'è qualche problema, non è che sei seduto all'alimentatore. No, sei basso, lo fate se stai portando appresso una specie di fischio, spegnila con la radio, la guardi con calma, attacca l'altra, così ci salutiamo, se no puoi rompere la radio. Sì, ma il segnale è basso, 6.9, eri 9.20, c'è qualche problema, ma tu la c'è accordatore esterno? No, sei basso, non stai uscendo come prima, tu dico l'accordatore esterno, ti ho detto, metti l'antenna diretta, visto che c'è l'accordatore sulla radio, accordi sulla banda 11 metri e non toccare niente, quei cacchio di accordatori ti fanno uscire di testa, amiche. Poi sono, fatta vedere un po' più di potenza, scaldano e ti vanno in tilt. Poi anche se c'è 1-1 di stazionarie, anche con un calcello puoi mettere 1-1, non stai irradiando l'antenna, probabilmente c'è un rientro grosso. No, sempre il segnale, un peluzzino più di 9, sì, ma ti si è abbassato parecchio il segnale, eri 9.20, quasi 9.20. Ma non è che per errore hai toccato magari la manopolina del potenziometro che regola la tensione della radio. Adesso sei tu, cosa hai toccato? Allora, per ti serve la colonnina e il microfono in questa radio. Che apparato vuoi comprare? Per migliorare questo devi spendere soldi, se vuoi migliorare a questo tipo di apparato, e a quel punto se devi spendere c'è un budget di 1000 euro, per dire, perché per avere una radio di un certo livello superiore a questo devi spendere almeno 1000 euro, c'è una radio nuova, c'ha 5 anni di garanzia, lo IAESI, l'FT710, analizzatore di spettro, Waterfall, c'ha tutto, tutti i sistemi digitali, puoi attaccare il monitor esterno direttamente del computer, c'ha tutto, accordatore e cose. famoso centro parte di radio, c'ha le HF e più 50 mega, ed è una radio che io probabilmente la devo prendere. È appena uscita una grande radio, sostituisce l'FDX10, però costa di meno con le stesse caratteristiche, ed è una radio eccellente. Di quel prezzo non c'è niente di meglio al mercato, c'è il 7003 dalla ICOM che si avvicina, però c'ha qualcosa in meno, ed è una radio veramente, se uno vuole spendere, c'è una radio ultima generazione, 5 anni di garanzia, che costa 990 euro, però anziché spendere 1000 euro con un FT1000, per dire, che è una radio che ha già 25-30 anni, con il rischio che ti lasci a piedi, anche se è una grande radio, tanto di cappello, se uno ha un budget di coso, investi su quel tipo di radio, poi piano piano ti organizzi per la patente e ti fai un po' di ascolto con quella lì, perché c'è un ricevitore della paura, c'è l'ISP, c'è tutte le cose di radio molto ben più costose. Poi adesso per iniziare ti prendi la colonnina del coso, che la paghi intorno ai 70-80 euro, un MC60 dagli 80 ai 100 euro e c'è tutto, la stazione è già bella che è pronta, l'850 va più che bene. Ok, io ti faccio fare passaggio, ti faccio di nuovo tanti auguri, io li faccio martedì prossimo, e compleanno, c'è un sacco di amici nati a settembre, tu sei uno di quelli. Va bene, ti rilancio per i saluti, io chiudo, ti auguro un buon tutto, saluto a tutti in casa, avremo modo di riascoltarci qua, saluto anche gli eventuali SWL, io faccio cuore a te Claudio. Ciao ciao, grazie del corso Claudio, poi se capita come rinfrescano un po' le giornate, un sabato sera, una domenica, non lo so, ti chiamo prima e faccio un salto dalle tue parti così mi fai vedere i giocattolini nuovi. Dai, ti saluto di nuovo, cuore ti definitivo, ciao ciao.